Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Un anno fa, di questi tempi, giorno più, giorno meno, Rosarno saliva agli onori della cronaca per vicende tutt'altro che educative. Sono passati molti messaggi negativi in quel periodo, quasi che tutta la Calabria, Rosarno in particolar modo, fossero le capitali dell'illegalità. Certo, lì non è che non ci siano le cosche, non è che non ci sia l'andrangheta, basta andarci per capirlo, insomma. Io sono andato lì moltissime volte per le mie inchieste sul Sole e mi trovavo in pieno svolgimento degli scontri più o meno un anno fa a Rosarno, quindi è una situazione che conosco molto bene. Ma la Calabria, i calabresi e Rosarno, o comunque i paesi di quella zona, non sono solo questo, ringraziando di Dio. Ci sono delle cooperative che lavorano in maniera assolutamente legale. Ci sono quindi dei luoghi di lavoro in cui la legge vale come nel resto d'Italia. È il caso della cooperativa I Frutti del Sole, che aderisce a Goelbio e che si trova proprio a cavallo tra la provincia di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia. Noi oggi di questo vogliamo parlare con Alberto Giuffrè, che fa parte della cooperativa I Frutti del Sole. Buongiorno Giuffrè. Buongiorno. Allora, ho detto bene o ho detto male dicendo che si può lavorare nella legalità anche in Calabria e voi ne siete una testimonianza. Ci racconti la vostra testimonianza. Sì, la nostra cooperativa naturalmente ha tutte le difficoltà che sono di carattere economico, non soltanto legale o politico, nella nostra regione. Certo. Ed è difficile non testimoniare non soltanto queste difficoltà, ma soprattutto le difficoltà dell'economia generale e di alcune situazioni di rapporti internazionali, esportazioni e anche di difficoltà delle leggi sulla emigrazione, no? Che hanno portato tutti i fatti di Certo. Ecco, è difficile non parlare di queste per mostrare come possono essere superate in qualche modo da una disciplina, da una coerenza, da una coscienza, diciamo così, di un gruppo di persone che hanno fatto un'esperienza diversa. Certo, infatti la vostra cooperativa, lo ricordiamo a tutti, ovviamente ha dei requisiti che deve tranquillamente, volontariamente rispettare, che sono quelli dei prodotti biologici, è d'accordo, ma pagare regolarmente i lavoratori, lavorare con protocolli di legalità e avere dei contratti assolutamente regolari e regolarizzati. Ecco, Giuffrè, le chiedo questo: ma voi avete soltanto lavoratori italiani o avete anche degli stagionali che arrivano appunto da fuori? No, solo con lavoratori italiani. Noi aspiriamo anche, in difficoltà in certe circostanze, ad operare in piena legalità anche i lavoratori emigrati. Ah, ho capito, bene, questo le fa onore e vi fa onore, quindi ovviamente non c'è nessun tipo di pregiudizio, ci mancherebbe altro, e quindi può essere anche un'occasione di lavoro per chi vuole mettersi in regola. Esistono queste cooperative che lavorano in piena legalità, I Frutti del Sole è uno di questo. Voi che cosa producete, che cosa commercializzate, Giuffrè? Noi agrumi, in particolare clementine, un po' meno arance e dei kiwi. Benissimo. Ma non è una cooperativa di grande dimensione, ha solo 50 ettari di produzione. Beh, ma lei lo sa perfettamente che l'Italia si mantiene finché può e finché potrà, soprattutto sulle piccole realtà, come sulle piccole e medie imprese, così sulle piccole e medie cooperative agricole, anche piccolissime. L'importante è che lavorino come la vostra. Senta, ma in questo momento a Rosarno la situazione com'è? Rosarno e zone limitrofe, ovviamente. Sì, la situazione è tranquillissima, c'è stato un ritorno fra l'altro di questi extracomunitari che mi risulti una definizione migliore delle possibilità di assunzione. E questo è molto positivo. Senta, facciamo un gioco paradossale e assurdo. Io sono Don Ciccio, vengo da lei e le dico: Giuffrè, guardi che Capisci a me. Ecco, capisci a me vuol dire insomma che anche la sua cooperativa dovrebbe sottostare alle rigide regole dell''ndrangheta. Lei come reagisce? Guardi, non c'è nessuno che è esente da questo genere di proposte, certo, di consigli, certo, perché in questi termini vengono formulati. Certo. Però io posso dichiarare in assoluta coscienza che non ho mai avuto alcuna adesione a questi consigli, né ho cercato dei privilegi che in qualche circostanza dal punto di vista economico dell'acquisto di merce e cose del genere potevano essere fatti. Guardi, lei non sa, non ha idea di quanto mi stia rendendo felice in questo momento, lo ripeto io a tutti i radioascoltatori. Giuffrè ci ha detto chiaro e tondo che in quelle zone è inutile illudersi, c'è sempre qualcuno che fa capire che se si ha bisogno di un amico, l'amico c'è. Un amico ovviamente che non ti tende una mano, te la tende soltanto per fotterti. Ebbene, Giuffrè ci dice che lui a questo tipo di amicizia non soltanto non tiene, ma non vuole tenere. Questa è la Calabria che ci piace, Giuffrè. Io veramente la ringrazio di questo suo contributo. Però non sono l'unico, questo vorrei affermare. Lo dica. Quanti siete secondo lei? Quanti sono i Giuffrè che esistono in quella zona? Io direi parecchi, io non è che riconosca tutti, certo, ma sono parecchi, qualcuno con qualche compromesso, ma tutti decisi a migliorare la situazione. E per migliorare ci vuole lo Stato, per migliorare bisogna parlare di queste cose, per migliorare bisogna creare quegli anelli di legalità, come li chiamo io, da anni in questo circuito ci siamo anche noi con questa trasmissione che si avvia alla conclusione. Io ringrazio davvero Giuffrè per la sua testimonianza. Ringrazio lei. Cooperativa I Frutti del Sole, ricordiamolo, se ci capiterà di trovare queste arance, mandarini, clementine, troviamole, cerchiamole, compriamole o andiamo sul sito goel.it e magari qualcosa lì ancora possiamo avere come indicazione. Grazie a Laura Faggini in studio e Roberto Calullo, vi auguro una buona giornata.